Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sono le 21 e 3 minuti e 35 secondi, qualcuno diceva perché dire i secondi, lo dico in questo momento per dire che l'appuntamento, il momento questo per l'appuntamento con il riepilogo della giornata, per rimanere sempre aggiornati su quello che succede, avete perso dei colpi delle notizie oggi, questo è il momento di rifarvi un quadro complessivo, il più possibile esauriente e chiaro, di quelli che sono stati i fatti principali di oggi qui a Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Quali sono stati i fatti centrali? Intanto poco fa ha parlato Obama, ma c'è stato anche il durissimo monito di Napolitano, però cominciamo appunto a capire quali sono i titoli principali. Stati Uniti, Obama ha fatto un discorso alla nazione e soprattutto ha lanciato un appello ai repubblicani, dice, invita l'opposizione a smetterla con i ricatti, a approvare la legge di bilancio mettendo fine a questo cosiddetto shutdown, perché dice questo potrebbe rappresentare il default per gli Stati Uniti, potrebbe rappresentare una bomba atomica. Poi il duro monito del Presidente della Repubblica Napolitano sulle carceri, ha scritto al Parlamento un messaggio in cui dice sono necessari dei rimedi straordinari contro il sovraffollamento dei penitenziari, ma scatta lo scontro con i 5 Stelle. Legge di stabilità, il Presidente di Confindustria Squinzi chiede al Governo 10 miliardi per il cuneo fiscale. All'Italia ci sono 15 giorni per evitare il fallimento, a rischio ci sono 4.500 posti di lavoro. E naturalmente si continua a parlare del naufragio di Lampedusa, si continuano a recuperare i morti. Oggi c'è stato a Bruxelles, a Lussemburgo, il Consiglio degli Affari Interni dell'Unione Europea. Alfano, il ministro dell'Interno italiano, sembrava piuttosto soddisfatto. Si parla di una task force europea, Roma-Bruxelles. Domani intanto arriverà il presidente della Commissione Europea, Barroso, a Lampedusa. E sono stati assegnati i Nobel per la fisica, premiati due scienziati teorici del bosone di Higgs, padri di quella che è stata anche definita la particella di Dio. Partiamo quindi dal monito di Napolitano sul sovraffollamento delle carceri italiane e da uno scontro poi che ne è scaturito in giornata con il Movimento 5 Stelle. Oggi il Presidente della Repubblica ha inviato alle Camere un messaggio appunto su questo grosso problema che più volte ha portato all'attenzione della politica. Ha detto che si tratta quella delle carceri di una condizione non più accettabile, l'ha scritto in questo messaggio, il Paese scrive in una condizione umiliante agli occhi del mondo. Allora sentiamo il messaggio di Napolitano letto dal Presidente del Senato Pietro Grasso. Sottopongo dunque all'attenzione del Parlamento l'inderogabile necessità di porre fine senza indugio a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni contestate all'Italia dalla Corte di Strasburgo. Esse si configurano, non possiamo ignorarlo, come inammissibile allontanamento dai principi e dall'ordinamento su cui si fonda quell'integrazione europea cui il nostro Paese ha legato i suoi destini. Ma si deve aggiungere che la stringente necessità di cambiare profondamente la condizione delle carceri in Italia costituisce non solo un imperativo giuridico e politico, bensì, in pari tempo, un imperativo morale. Ma come vi dicevo, alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, a poche ore da questa lettura del messaggio di Napolitano alle Camere, l'hanno definito questo messaggio pro Berlusconi e subito c'è stata la replica piuttosto furente, possiamo dire, di Napolitano. Sentiamolo. Coloro i quali pongono la questione in questi termini vuol dire che sanno pensare ad una sola cosa, hanno un pensiero fisso e se ne fregano degli altri problemi della gente e del paese, vuol dire quelli che dicono così, che non sanno quale tragedia è quella delle carceri, va bene? Non ho altro da dire. Grazie. Il governo intanto è impegnato nel mettere a punto la legge di stabilità, all'interno della quale, secondo Confindustria, in primo piano ci deve essere il cuneo fiscale, vero Vincenzo Miglietta, in diretta da Roma? Sì, buonasera Roberta, buonasera ai nostri ascoltatori. È così per non solo per gli industriali, ma su questo fronte, Roberta, c'è anche i sindacati, c'è uno schieramento, c'è un fronte comune, uno schieramento compatto, quindi sindacati ed imprenditori nel chiedere che il primo intervento, quindi al centro della legge di stabilità, sia proprio il taglio al cuneo fiscale, misura questa proprio che secondo le parti sociali serve per favorire la ripresa, per favorire la crescita. Sappiamo che cosa è il cuneo fiscale, ovvero la differenza tra quanto le imprese pagano per un lavoratore e quello che poi effettivamente ciascuno di noi riceve in busta paga. Il governo vorrebbe mettere sul tavolo misure per 5 miliardi, le parti sociali dicono no, non sono questi soldi sufficienti, ne servono 10. Invece sulla questione dell'IMU, no, che continua a tenere banco, è veramente una vicenda annosissima, Vincenzo Miglietta, il Partito Democratico oggi ha deciso quindi di ritirare gli emendamenti relativi alla prima rata, no, che aveva detto no, però le case con rendita catastale superiore ai 750 euro devono pagare. Poi sono venute fuori delle possibili incongruenze, qualcuno che magari ha 33 sì. metri quadrati dovrebbe pagare a seconda di dove si trova la casa a sua volta un IMU piuttosto alto. Insomma, per il momento a che punto si è su questa questione? Al momento, allora, come notizia che poi troveremo domani su tutti i quotidiani, leggeremo l'IMU è tornato tutto al punto di prima, ovvero è venuto a meno questa cosa che tu anticipavi. In realtà quello era un emendamento a firma Partito Democratico più Scelta Civica. Ora il PD vi ha rinunciato, mentre invece Scelta Civica continua ad insistere su questo punto, perché secondo il partito di Monti il togliere la prima rata dell'IMU non permetterebbe allo Stato di avere le risorse necessarie. Quindi Scelta Civica cosa dice? Ritireremo i nostri emendamenti quando sarà dimostrato che in effetti vi sono altre risorse con le quali compensare. Insomma, è un po' un garbuglio di tutta la situazione, e comunque le commissioni bilancio e finanze stanno lavorando, ma direi che la maggioranza politica, sappiamo, si regge su questo accordo sull'IMU, e credo che quindi non sarà rimessa questa misura di cui si è parlato in giornata. Grazie Vincenzo Miglietta. Grazie. E l'abolizione della prima rata dell'IMU, con i conseguenti aumenti decisi dagli enti locali, ha però avuto un ruolo nell'aumento della pressione fiscale. È volata secondo l'Istat nel secondo trimestre e si è attestata al 43,8%. 1,3 punti in più dell'anno scorso e un livello record al 43,8%. Il nuovo dato sulla pressione fiscale diffuso dall'Istat è figlio di due dinamiche. Il valore assoluto delle entrate tributarie, certo, e quello del prodotto interno lordo, in discesa continua. I due fattori sono evidentemente legati, come riconosce lo stesso governo, che in questi giorni mette in cantiere la legge di stabilità. La sua parola d'ordine è la riduzione del cuneo fiscale, cioè delle richieste del fisco su aziende e lavoro, con l'obiettivo dichiarato di agganciare la crescita. Intanto la realtà però sfugge da tutte le parti. L'IVA è appena aumentata, la TARES è agitata da continui ritocchi e promette salassi ben distribuiti, e l'IMU continua a essere un rebus. A fine anno, stima Confesercenti, la pressione fiscale arriverà al 45,8%, e per cogliere il peso reale delle tasse bisogna anche aggiungere un'altra decina di punti per pulire il dato dall'economia sommersa. Per cambiare schema di gioco occorre abbandonare la logica dei microinterventi e intervenire con decisione sulle ragioni strutturali del superfisco italiano. Ma ci vuol tempo. Lo sa bene lo stesso governo, come mostra il DEF appena approvato a Palazzo Chigi. Da qui al 2017, secondo il programma, le entrate del fisco cresceranno di 80 miliardi all'anno. Gianni Trovati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo al dramma dei migranti. Si è concluso nel tardo pomeriggio a Lussemburgo, vi dicevo, il Consiglio Europeo dei Ministri degli Interni. Il risultato di oggi è una task force tra l'Italia e la Commissione Europea, così ha detto la commissaria Cecilia Malmström al termine di questo Consiglio. Era al suo fianco il ministro dell'Interno Angelino Alfano, che si dice soddisfatto per quanto ottenuto dai suoi colleghi europei dopo questo incontro, e sentiamo nel dettaglio quali sono gli accordi raggiunti. Ora che a Lampedusa le barre allineate sono quasi 300 ed aumentano pure quelle dei bambini, l'inchiesta sul naufragio fa un salto di qualità. Il capitano viene portato in carcere e un nuovo fascicolo viene aperto, stavolta per tratta di esseri umani. Ci potrebbe essere un'organizzazione dietro Khaled Ben Salam, il tunisino di 35 anni, indicato come il comandante del barcone naufragato con 500 eritrei. Un'organizzazione che da ogni viaggio come questo guadagna $1 milione, ricostruiscono gli inquirenti, e che non è esita a far partire malandati pescherecci con centinaia di persone stipate. Un muro di corpi rimasti in piedi apparso davanti agli occhi dei sommozzatori che stanno recuperando le salme a 47 metri di profondità. E non a caso il capitano, come viene chiamato dai superstiti, ora deve rispondere ad Agrigento pure di omicidio volontario plurimo, lui che, come hanno raccontato anche a Radio 24 alcuni sopravvissuti, diede fuoco personalmente alla coperta al largo di Lampedusa. Contemporaneamente Palermo indaga per tratta di esseri umani per ricostruire chi e come avrebbe coordinato il viaggio dei migranti, un viaggio finito per la maggior parte in fondo al mare, per altri per ora dentro il centro di accoglienza dell'isola, dove la tensione sale sempre di più. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E questi erano gli ultimi aggiornamenti da Lampedusa. Quanto invece dicevamo al Consiglio europeo dei ministri degli interni, sentiamo quali sono state le conclusioni, con una certa soddisfazione del ministro dell'interno Alfano. L'Italia ha ottenuto che Frontex cambi registro e sia più efficace nella sorveglianza della frontiera marittima. L'Italia ha soprattutto ottenuto il dato di consapevolezza comune che la questione di Lampedusa, la questione della frontiera del Mediterraneo, è una questione europea e non può gravare solo sull'Italia. Ha ottenuto che si costruisca immediatamente una squadra guidata dall'Europa, fatta dai paesi interessati per una gestione comune del fenomeno dell'immigrazione. Ho fatto, e bisognerà ancora di più fare presente, che non sempre avviene attraverso uno sbarco, spessissimo avviene per i due terzi dei casi avviene con un nostro soccorso, quindi noi impieghiamo uomini che rischiano la vita, impieghiamo mezzi, impieghiamo unità navali, impieghiamo centinaia o migliaia di soccorritori. Tutto questo ha un costo enorme che non è parametrabile al numero complessivo dei migranti, che in effetti sul piano appunto numerico è inferiore rispetto a quello degli altri paesi del nord. E tocca parlare anche purtroppo di maltempo, perché resta alta l'allerta meteo nel sud Italia, ormai siamo in autunno inoltrato. Oggi il maltempo ha fatto un'altra vittima, questa volta a Latina, ancora è critica la situazione in Puglia. Nel Tarantino la pioggia continua a cadere forte, tanto da impedire le ricerche dei tre dispersi a Ginosa. Domattina si riprenderà a cercare un giovane della provincia di Matera e una coppia di coniugi trentenni. Il nubifragio intanto ha già fatto una vittima, ritrovata questa mattina a 3 chilometri di distanza dalla sua auto. Rossella Pegnarosa, 30 anni, ieri sera era scesa in strada per mettere al riparo la macchina, prevedendo l'aggravarsi del meteo. Poco dopo il canale esondato l'ha travolta, sbalzando fuori dalla sua Fiat 600. 2 anni fa lo stesso paese fu colpito da un'altra grave alluvione, sconcertato il sindaco Vito De Palma. Mai visto in vita mia tant'acqua con una furia e una potenza da distruggere ponti, strade, tutto ciò che ha trovato lungo il suo cammino. Nel frattempo a Grosseto è stato ritrovato senza vita il turista svizzero Marcus Link, dopo che ieri era stato recuperato il corpo del figlio di 6 anni. A Latina invece questa mattina un uomo è morto folgorato da un fulmine. La vittima, 44 anni, probabilmente di nazionalità indiana, è stata colpita mentre lavorava in campagna. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre in primo piano resta la questione di Alitalia. C'è ancora nulla di fatto per la situazione della compagnia aerea. Questo pomeriggio si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi, al quale però non ha partecipato l'azienda, e il consiglio di amministrazione si è aggiornato giovedì, e questa mattina a effetto giorno è intervenuto Luigi Angeletti, leader della UIL. Ascoltiamolo. La soluzione ovviamente è fare accordi con altri partner che ci diano questa garanzia. Non c'è nessun motivo per accettare soluzioni per le quali lei e io o qualunque altro italiano, per andare a New York devono fare il giro dell'Europa, oppure un cinese che vuole venire a visitare il Colosseo è costretto a fare il giro dell'Europa prima di arrivare a Roma. Ma non ho capito, però l'intervento dello Stato lo ritiene auspicabile lei o no? Io credo che non è auspicabile, lo considero allo stato dei fatti necessario. E probabilmente bisognerebbe fare una cosa un po' più strutturata, che non sia banalmente quella di dare soldi, ma per esempio di fare un accordo infrastrutturale tra le reti ferroviarie e le reti aeree. E infine parliamo dei Nobel per la fisica, che sono stati assegnati oggi al belga François Englert, di 81 anni, al britannico Peter Higgs, di 85 anni, due scienziati cioè che hanno teorizzato l'esistenza del bosone di Higgs. E di questo poi parleremo più in là, qui a Effetto Notte, con la ricercatrice italiana che ha contribuito a questa scoperta. Adesso prima pausa con gli aggiornamenti per chi viaggia e ci ritroviamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E allora riprendiamole dai titoli queste notizie. Arriva l'allarme di Obama, il presidente americano, dagli Stati Uniti sullo shutdown, cioè sul blocco di tutte le attività pubbliche e governative. Dice il blocco delle attività degli uffici e dei servizi negli Stati Uniti è una cosa umiliante davanti al mondo, è un messaggio che lancia ai repubblicani che lo stanno ostacolando in questa cosa. Dice il default sarebbe una bomba nucleare, un'arma troppo orribile per solo pensare di usarla. Per quanto riguarda le notizie italiane, c'è il monito durissimo di Napolitano sul sovraffollamento delle carceri. Ha mandato un messaggio al Parlamento che dice sono necessari rimedi straordinari contro il sovraffollamento dei penitenziari e scatta lo scontro con i 5 Stelle. Legge di stabilità, il presidente di Confindustria Squinzi si è incontrato con Letta e chiede al governo 10 miliardi per il cuneo fiscale. Per il naufragio di Lampedusa, oggi c'è stato il Consiglio degli Affari Interni Europei in Lussemburgo e si è parlato di una possibile task force europea per affrontare il grave problema dell'immigrazione. Domani arriva Barroso a Lampedusa. Nobel per la fisica, sono stati premiati due scienziati teorici del bosone di Higgs, padri di quella che è anche stata definita la particella di Dio. Adesso approfondiamo uno degli argomenti più particolari di oggi. Buonasera Tullio De Mauro. Buonasera a lei. Tullio De Mauro non ha ovviamente bisogno di presentazioni, come si dice, però lo dico, è professore emerito di linguistica generale nella Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università di Roma La Sapienza, un pilastro della cultura italiana, ha scritto infiniti volumi, infiniti riconoscimenti ha avuto. E a Tullio De Mauro vorrei chiedere cosa pensa di questo rapporto molto sconfortante dell'OCSE, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, sull'alfabetizzazione in Italia e negli altri paesi. Ha preso in esame l'OCSE 157.000 adulti di età compresa fra i 16 e i 65 anni, quindi in età non scolare, almeno non della scuola dell'obbligo, in 24 paesi. Quelli che fanno di popolazione, naturalmente. Un campione di popolazione, cioè, non 157.000 persone a caso, ma un campione stratificato che riproduce le caratteristiche fondamentali. Che fosse emblematico, certo, di tutta la popolazione, certo, presa in esame. La cosa veramente sconfortante, dicevo, è che gli italiani, la popolazione italiana risulta con gravi difficoltà sia nella lettura sia nella scrittura, non riesce a far di conto. Insomma, siamo una popolazione che sembra arretrata ai tempi ancora di un'Italia agricola. È possibile questo oggi nel 2013, Tullio De Mauro? Intanto i dati sono reali, possibili o no che siano, ma riguardano tanti paesi, riguardano 24 paesi e vanno letti nel confronto con altri paesi. La cosa interessante è che dappertutto troviamo delle sacche di popolazione che in età adulta regrediscono rispetto ai livelli che hanno raggiunto da giovani a scuola, anche dove ci sono dei sistemi scolastici ben funzionanti, eccellenti, che per certi aspetti noi invidiamo. Anche però, se, mi perdoni Tullio De Mauro, leggevo che per quanto riguarda il Giappone, secondo questo rapporto dell'OCSE, un giapponese appena uscito dal liceo è nettamente più preparato di un laureato italiano o francese. Ma questo è ancora un altro discorso. Il Giappone è uno dei pochi paesi che contrasta decisamente e bene il fenomeno della dealfabetizzazione in età adulta. Leggono molto, hanno ottime biblioteche, ottimi giornali che informano bene e ampiamente su che cosa succede nel loro paese e nel mondo, e cosa succede davvero. Non solo dei commenti e commenti, dei commenti, dei commenti di politici. E quindi è un paese che da questo punto di vista funziona bene e non per caso è al top nel mondo per quanto riguarda le capacità alfabetiche e per quanto riguarda anche soprattutto le capacità di calcolo e di rapporto con la matematica. Volevo dirle però, non sottovaluti la cosa, dappertutto, ci sono fenomeni di regressione verso condizioni di minore competenza rispetto all'età giovanile. E cosa è dovuto questo alla crisi? È dovuto a come funziona il nostro cervello, è normale. In che senso? C'è sempre una perdita andando avanti negli anni. Questa perdita che viene valutata intorno ai 5 anni di regressione, in Italia assume delle proporzioni. Questa perdita si verifica perché ci sono tanti anziani, dice? No, ma, guardi, basta arrivare a 26 anni, non bisogna arrivare troppo in là. Bastano 5-6 anni di lontananza dal canale scolastico per perdere. Lei si ricorda chi è Stilicone? Mi ricordo chi è? Stilicone. In questo momento non mi sovviene, dico no, la verità. Ecco, appunto, ma un giorno l'ha saputo. L'ho saputo, andrò a scandagliare nei miei anni della mia vita. Ha saputo che cos'è una derivata, che cos'è un'integrale. Da lei, io. No, sulla matematica, Tullio De Mauro, posso essere assolutamente d'accordo, però no, sul fatto che dicono la lettura, la scrittura, l'Italia è all'ultimo posto, al penultimo sui numeri, all'ultimo posto. Io capisco che lei rilutta a seguire questo ragionamento, si perdono le competenze acquisite a scuola, dal più al meno, se non vengono esercitate. Naturalmente la capacità di leggere e capire e la capacità di fare conti è così generale che se si segue, se ci si tiene aggiornati con l'informazione, con la lettura, questa capacità non si perde. Si dimentica chi è Stilicone o che cos'è un numero immaginario, ma si continua a saper leggere un grafico o a ricordarsi che, insomma, Carlo Magno viene parecchio dopo Alessandro Magno e parecchio prima di Napoleone. Però Tullio De Mauro, se mi permette, non è che non voglio seguire il suo ragionamento, ma assolutamente. Dai risultati del rapporto dell'OCSE sembra in realtà, intanto sono presi come campioni anche persone dai 16 anni fino ai 65, sì, quindi ci sono anche quelli giovanissimi in realtà. Sì. Quello che mi rende perplessa è che, d'accordo, possiamo perdere nozioni di vario tipo, dalla storia, la geografia, la matematica, però l'incapacità di leggere e anche di usare le proprie competenze per muoversi nel mondo circostante, questo mi sembra un po' più sorprendente. Strano, no? È vero, strano, ma lei immagini di non leggere più una pagina scritta a stampa o su internet o come che sia, per anni e anni e anni, e di non averne il bisogno, e di essere distratta da altre cose più piacevoli, il Grande Fratello, il Piccolo Fratello, una partita di... vedere una partita in televisione, basta contare i gol, insomma, non ci vuole troppa matematica. Le capacità acquisite si atrofizzano. Quello che colpisce l'osservatore di questi dati su 24 paesi è che dappertutto ci sono sacche di regressione in età adulta, ma in Italia queste sacche assumono una... Appunto, questo è il punto. Perché proprio in Italia siamo quelli messi peggio, Tullio De Mauro? Questo lo dovremmo chiedere con un esame di coscienza collettivo. La scuola non c'entra niente con questo tipo di fenomeni, cioè la scuola italiana fa, come quella di altri paesi, quello che può fare, lo fa anche abbastanza bene. Non voglio fermarmi su questo punto, più a lungo lo affermo, diciamo, e lo si può dimostrare, ma gli stili di vita della società italiana sono particolarmente sfavorevoli. Lei, giornalista, conosce gli indici di lettura dei giornali, molto siamo uno degli ultimi posti al mondo. Il Giappone invece è al primo posto. Tullio De Mauro, però mi viene in mente... Siamo agli ultimi posti per la lettura di libri. Sì. Tre quarti del ceto imprenditoriale italiano non esita a dire all'Istat, alle indagini multiscopo dell'Istat, che non legge mai un libro nell'anno. Ma questo è abbastanza impressionante. Come si fa a gestire una grande impresa senza sapere in che mondo ci si trova? E chi ce lo dice in che mondo ci si trova se non qualche buona lettura? E allora, è un fenomeno trasversale che attraversa le classi sociali, attraversa l'età. Per contrastarlo come facciamo, Tullio De Mauro? Quindi bisogna rinvitare, cambiare mentalità, leggere giornali, leggere più libri? Quello che fanno in tanti altri paesi europei, tanto per cominciare. Cioè avere un buon sistema di educazione, di apprendimento per tutta la vita, come si dice. L'apertura e il funzionamento di corsi brevi, corsi lunghi per l'aggiornamento professionale, non solo, ma anche per il generico aggiornamento culturale che serve a riattivare i neuroni atrofizzati nei nostri cervelli, a imparare cose nuove. Forse c'è anche il problema dell'abbandono precoce però in Italia, della scuola, degli studi. Però, Tullio De Mauro, mentre siamo in chiusura, mi viene in mente chi è Stilicone, uomo politico e generale del 360... Bravissima, guardato Wikipedia. Sì. Molto brava. Vede che Wikipedia aiuta, però bisogna saperlo usare, bisogna sapere leggere. In tempo reale soprattutto, bisogna saperlo usare. Tullio De Mauro, io la ringrazio... Allora, noi siamo al 70%... Sì. Di persone che hanno difficoltà nel rapportarsi a un testo scritto e altrettanto a un calcolo anche elementare, e questo è superiore a ogni, molto superiore alla media di dealfabetizzati in giro per il mondo. Siamo messi male anche da questo punto di vista, così con una nota, sì, di speranza, caro Tullio De Mauro, io la ringrazio e la saluto. C'è una nota di speranza? Sì, sentiamola. Per la prima volta, perché questi dati sono analoghi a quelli, identici più o meno, a quelli di due precedenti inchieste e indagini internazionali. Quindi non siamo che peggiorati. Rivelavano questi dati, di cui nessuno si era occupato, soprattutto nessun governante, nonostante alcuni di noi, Saverio Avveduto e altri, li andassero in giro a farli conoscere, nessun governante si era preoccupato. Oggi ben due ministri, Carrozza e Giovannini, sì, beh, Carrozza dell'istruzione, diciamo un segno, un raggio di luce. Meno male, teniamolo questo raggio di luce. Grazie ancora, Tullio De Mauro. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano con voi per ricordarvi, mentre andiamo avanti sino alle 22, per adesso i titoli principali. Vi ricordo anche che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte Roberta Giordano. Partiamo dagli Stati Uniti. Obama ha lanciato un appello ai repubblicani. Attenzione, il blocco sul bilancio è una minaccia per tutto il popolo americano. Il presidente parla alla nazione, invita l'opposizione a smetterla, dice, con i ricatti, a approvare la legge di bilancio, altrimenti se non si mette fine allo shutdown sarebbe catastrofico come una bomba atomica. Il problema delle carceri, Napolitano scrive al Parlamento e dice che sono necessari rimedi straordinari contro il sovraffollamento dei penitenziari, e intanto scatta lo scontro con i 5 Stelle. Legge di stabilità, il presidente di Confindustria, Squinzi, che incontra Letta, chiede al governo 10 miliardi per il cuneo fiscale. Il naufragio di Lampedusa, oggi c'è stato il Consiglio degli Affari Interni in Lussemburgo, era presente anche il ministro dell'Interno Alfano, che è soddisfatto per aver raggiunto la proposta perlomeno di un accordo per creare una task force che aiuti Roma, aiuti l'Italia da parte di tutta l'Unione Europea. Sono stati assegnati Nobel per la fisica, premiati due scienziati teorici del bosone di Higgs, sono i padri di quella che è stata anche definita la particella di Dio. E adesso il prossimo ospite, che è Patrizio Gonnella, che saluto, presidente dell'associazione Antigone, al quale però chiedo subito, buonasera Gonnella. Buonasera a voi. Chiedo di avere un attimo di pazienza perché c'è Fitto, sa che salto un po' di qua di là per tenere un po' tutto sotto controllo, c'è Raffaele Fitto del Popolo della Libertà, Ballarò. Perché io non voglio più che accadano queste cose. Sappiamo perché che è un po' il contraltare di Alfano in questo momento. Immaginando di fare altro, e se volete vi accodate o meno. Ci vorrebbe capo da voi. No, il capo noi ce l'abbiamo. Glielo dico con molta chiarezza, io osservo i servizi, un po' tutto il dibattito, sono molti anni che andiamo avanti con questa storia, noi abbiamo un capo che non è un capo, è un leader. Io non ho mai mandato il cervello all'ammasso in vita mia. Berlusconi può essermi simpatico o antipatico, posso stimarlo o meno, ma sa perché è il mio leader? perché da 20 anni prende milioni di voti. E quindi io lo riconosco come leader. Non lo riconoscevo, lo riconosco mentre le sto parlando. E su questo è chiaro, Fitto, tra i cosiddetti lealisti, come si dice. Patrizio Connella, c'è un altro argomento che è politico, non riguarda la scissione, possibile scissione all'interno del PDL, ma un monito lanciato oggi da Napolitano proprio alle Camere, quindi una questione di cui si deve far carico in questo momento la politica, il Parlamento. Lei è presidente, dicevamo, dell'associazione Antigone, che è un'associazione politico-culturale, no, Connella? Sì, da tanti anni facciamo un lavoro di sensibilizzazione sul tema del sistema penale, del sistema penitenziario, andiamo a visitare le carceri, le visitiamo ogni anno tutte 206 e raccontiamo quello che vediamo, e quello che vediamo non è una cosa bella da raccontare negli ultimi tempi. Però Presidente della Repubblica oggi tornava a parlare di amnistia, di indulto, è intervenuto subito il Movimento 5 Stelle, almeno alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno detto ecco questo è un messaggio ed sarebbe una proposta e un provvedimento eventualmente pro Berlusconi, e questa cosa ha fatto molto indignare Napolitano, l'abbiamo fatto sentire prima. Secondo lei Ci potrebbe essere anche questa possibilità rispetto a quelle che sono per adesso la condanna Mediaset per frode fiscale a Berlusconi? Non ho idea di quale accordo raggiungeranno in Parlamento, posso però ricordare che nella storia delle 13 amnistie, nonché dell'indulto del 2006, l'evasione fiscale non vi è mai entrata nelle precedenti amnistie e soprattutto non vi è mai entrata una pena così lunga e così, diciamo, di 6 anni, quindi mi pare improprio che questa volta ci rientri. La questione carceraria non è una questione che riguarda i colletti bianchi, perché di colletti bianchi in carcere ce ne sono pochissimi. Invece ci stanno persone, soprattutto che dentro per aver violato la legge sulle droghe, per gli effetti indiretti della legge sull'immigrazione, per un uso anzi eccessivo della custodia cautelare. Quindi la situazione, l'ha detto già diverse volte, non è la prima volta che lo dice Napolitano, è vergognosa, umiliante, c'è sovraffollamento, troppe persone dentro una stessa cella per quello che dovrebbe essere invece la capienza. Però quando Connella si parla di amnistia o indulto, anche se le dice tanti sono più o meno dei poveracci o comunque con dei reati non così gravi o pesanti, cioè, però non si rischia di dare un messaggio all'opinione pubblica, alle persone, che la giustizia non va mai fino in fondo e che prima o poi c'è sempre un qualche escamotage per non assicurare che chi ha sbagliato paghi? Io penso che infatti proprio per non dare questo messaggio bisognerebbe avere il coraggio di fare delle riforme che durino nel tempo e quindi delle riforme che, diciamo, come posso dire, facciano rientrare il nostro sistema per sempre nella legalità, che è quello che vuole la Corte Europea dei Diritti Umani, che non vuole così un secco e solo provvedimento di amnistia. Noi dobbiamo cambiare, riformare il sistema delle sanzioni, introdurre delle sanzioni moderne come altri paesi, penso ai lavori socialmente utili nei fine settimana, cambiare la legge sulle droghe che mette sullo stesso piano consumatori e narcotrafficanti e che produce circa il 40% dei detenuti presenti nelle carceri italiane e così via. Dobbiamo fare una serie di cose, garantire la tutela dei diritti, introdurre il delitto di tortura nel codice penale, ridurre le pene per alcuni fatti di reato e invece cambiare e aumentarne per altri, cioè bisogna risistemare una giustizia che di fatto non funziona, che produce il 40% di detenuti in custodia cautelare, che è una percentuale praticamente doppia rispetto a tutti gli altri paesi europei con cui dobbiamo confrontarci, per i paesi tipo Germania, Francia e così via. Detto questo, in una situazione eccezionale come quella attuale, fatte queste riforme o impostate queste riforme, l'atto di amnistia deve essere interpretato come un atto umanitario, non come un atto di gestione della giustizia, perché altrimenti sarebbe un fallimento della giustizia. È un atto che tiene conto che la gente vive 4 persone in 10 metri quadri e che in Italia non è stata diciamo, capace di assicurare il rispetto dei loro diritti umani. Quindi siamo d'accordo, Gonnella, che adesso appunto la situazione è di gravissima emergenza, però una volta che dovessero passare appunto provvedimenti come l'amnistia e l'indulto, vanno fatte le riforme, le modifiche di cui lei ha parlato prima, altrimenti ogni volta che si riempiono le carceri di persone più o meno poverette o di pericolosi delinquenti, ogni volta non può essere questa la meglio situazione. Meglio sarebbe, no? Ancora prima fare le riforme e poi l'amnistia. Ancora meglio, ancora più coerente sarebbe il messaggio, perché ovviamente vuol dire che fatte le riforme, certo, ora possiamo ripartire con un provvedimento di amnistia come si fa quando ci sono delle cesure temporali. L'amnistia di Togliatti, che viene ogni tanto evocata, fu fatta perché si passava da un regime a una democrazia. Le amnistie devono segnare delle discontinuità. Anche questa speriamo che segni una discontinuità, però nel messaggio di Napolitano c'era anche un ampio accenno alle riforme da fare. Vedremo, vedremo come si comporterà la politica, come al solito, con le riforme. Grazie intanto a Patrizio Gonnella. Grazie a voi. Grazie, buona continuazione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccole qui le notizie principali, il monito di Napolitano sulle carceri sovraffollate e poi c'è lo scontro con i 5 Stelle che dicono è un provvedimento, l'amnistia e l'indulto che chiede Napolitano pro Berlusconi, e il Quirinale risponde i 5 Stelle evidentemente se ne fregano del paese. Legge di stabilità, il presidente di Confindustria Squinzi incontra Letta e chiede al governo 10 miliardi per il cuneo fiscale. Il naufragio di Lampedusa, oggi c'è stato il Consiglio degli Affari Interni dell'Unione Europea e si è proposta una task force perché tutta l'Unione Europea sia solidale e compatta e aiuti anche l'Italia nel problema dell'immigrazione. Sono stati assegnati i Nobel per la fisica, premiati due scienziati teorici del bosone di Higgs. E a questo proposito io introdurrei l'ospite, la prossima ospite, che è la studiosa che è dietro, italiana, dietro a questa scoperta del bosone di Higgs. Buonasera Fabiola Gianotti. Buonasera a voi. Fabiola Gianotti è studiosa, ricercatrice famosissima del CERN, una delle nostre eccellenze italiane, no Fabiola Gianotti? Adesso parleremo dei Nobel, ma intanto diciamo due parole del CERN, di questo centro di ricerca così importante. Il CERN è il laboratorio per la fisica delle particelle più importante al mondo, un'organizzazione internazionale a cui collaborano 20 paesi membri europei più paesi di tutto il mondo, quindi è veramente un posto, un centro di eccellenza per la fisica delle alte energie, per la fisica subatomica, ma è anche un centro in cui si sviluppa tecnologia di punta, perché gli strumenti che dobbiamo costruire per perseguire i nostri scopi di fisica, acceleratori e rivelatori di particelle, sono strumenti di altissima tecnologia, ed è anche un centro molto speciale per favorire la pace, perché lavorano fisici, scienziati, ingegneri, tecnici provenienti da tutto il mondo, quindi è un posto molto speciale. E la sua sede così speciale dov'è? A Ginevra. A Ginevra, in Svizzera. Ecco, quindi diciamo, il Nobel per la fisica a Higgs e Engler, cioè due scienziati anche abbastanza in età, il belga François Engler, si pronuncerà, 81 anni, e il britannico Peter Higgs, di 85. E questi due scienziati avevano teorizzato l'esistenza del famoso bosone di Higgs, e da cui poi è stata chiamata la particella di Dio. E so che dietro a questo team, a questa equipe, c'era anche lei, Fabiola Gianotti, no? Diciamo, François Engler con Peter Higgs e Robert Braut, che è mancato qualche anno fa, hanno sviluppato una teoria, diciamo che poi è stata verificata, quindi questo all'inizio degli anni 60, nel 64, quindi ben 50 anni fa, e questa teoria è poi stata verificata e dimostrata essere corretta nel 2012, quando al CERN gli esperimenti ATLAS e CMS hanno annunciato la scoperta di una nuova particella che aveva appunto tutte le caratteristiche del bosone di Higgs, che era stato appunto teorizzato già parecchi anni fa, quindi percorso sì, lungo parecchi anni fa dalla teoria di Higgs e Braut e Engler. Quindi questo premio Nobel, per cui che per noi è chiaramente una grandissima emozione, una grandissima soddisfazione, perché non soltanto premia la teoria, ma premia anche la scoperta che ha dimostrato che la teoria è corretta, quindi è una grandissima soddisfazione per le migliaia di scienziati che hanno lavorato, compresa lei, no Fabiola? Compresa me, sì, io coordinavo l'esperimento Atlas al momento in cui la scoperta è stata fatta. Quindi, visto che lei ha possesso della materia, visto che era in questo team eccezionale internazionale, può riuscire a dire in parole molto semplici per noi comuni mortali che in cosa consiste effettivamente questa particella di Dio o bosone? Dunque, questa particella, questo bosone di Higgs, noi scienziati non amiamo molto chiamarla particella di Dio, quindi questo bosone di Higgs è una particella molto speciale perché ci permette di capire il meccanismo attraverso il quale le particelle elementari, le altre particelle elementari acquistano una massa. Potrebbe sembrare una domanda un po', una questione un po' astrusa, un po' lontana dalla vita pratica, però se le particelle elementari, fra cui annoveriamo anche gli elettroni e i quark, che sono i costituenti fondamentali dell'atomo, quindi della materia. Quindi ce l'abbiamo anche noi queste particelle elementari, chiaramente? Sì, non avessero le masse che hanno, gli atomi non potrebbero stare assieme, quindi se non ci fossero gli atomi non ci sarebbero gli elementi chimici, non ci sarebbe la materia ordinaria come la conosciamo, quindi il nostro universo o non esisterebbe o sarebbe completamente diverso, quindi è una particella chiave per capire la struttura e l'evoluzione dell'universo e per capire anche la nostra stessa esistenza, quindi in questo senso è una particella molto molto importante ed era una chiave mancante nella nostra conoscenza della fisica fondamentale. Quindi viva il bosone e viva il premio Nobel e viva anche Fabiola Gianotti che c'era in questa ricerca. Beh, diciamo viva tutti gli sperimentali che hanno contribuito a questa scoperta magnifica, tra cui 600 italiani, non lo dimentichiamo, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e delle università associate, quindi l'Italia ha dato un contributo molto importante. Quindi nonostante si parli sempre un po' con critiche, polemiche rispetto alla ricerca italiana, diciamo, sappiamo che i cervelli ci sono, ma spesso sono altrove, come in Svizzera il suo e gli altri, no? Speriamo che la situazione possa migliorare. Facciamo così, facciamo gli ottimisti, grazie, e gli speranzosi quantomeno. Fabiola Gianotti, la ringrazio, buon lavoro, buona continuazione. Grazie a voi per il vostro interesse, grazie. Grazie. E dal bosone di Higgs al pallone con la vicenda del Milan, che continuano le polemiche sulla decisione di comminare una maxi multa alla squadra di farla giocare a porte chiuse nella partita contro l'Udinese. La chiusura di San Siro per cori razzisti in qualche modo è un segno positivo perché è una posizione presa dopo anni di impunità. Ma è davvero una scelta utile? Secondo Galliani è una scelta quasi al limite del pretestuoso. Probabilmente non c'è stato nulla, forse uno ha sentito uno della Procura federale in bagno piuttosto che al bar, non so dove, adesso mi prenderò una squalifica anch'io, può darsi. Per molti, e tra questi anche lo stesso Galliani, si tratta di un gigantesco potere concesso agli ultra che possono dunque continuare nel gioco della minaccia. Io sbaglio, tu paghi. La pensa così anche Ferruccio Taroni, membro del consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza negli Stadi. Se io sono un tifoso di una squadra e voglio farmi sentire della mia squadra, basta che incomincio a farla sanzionare. E la giustizia sportiva così funziona, e quindi poi la squadra è obbligata ad ascoltare. Dobbiamo un po' uscire da questa logica, quella della super multa alla società sportiva per il tifoso si comporta male, per questo vuol dire mettere la società sportiva sotto scacco del tifoso. Per il mio ragionamento è molto più complesso, si parla continuamente di progetti sociali ma poi di fatto si fanno delle cose finte, il clima repressivo non ha mai pagato, anzi è sempre stato peggio. Bisogna riallacciare i dialoghi, riaprire gli stadi alle famiglie, ma abbiamo una legge che chiede ai bambini di entrare con i documenti, è fatica a riaprire le famiglie. Che le tifoserie ultra abbiano troppo potere è forse il vero tema da affrontare. Per farvi capire il senso di questa storia vi riportiamo quanto raccontato ai magistrati da tale Carlo Giovanni Capelli, uno dei capi delle brigate rossonere, soprannominato il Barone. Parla, ad esempio, di un pass gratuito con cui i capi ultra andavano ovunque nello stadio. Secondo Ferruccio Taroni, membro del consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza negli Stadi, la questione vera è rinunciare da parte dei club a un grosso potere. Ma guardi, molte volte ci troviamo davanti a una tifoseria politicizzata e che sfrutta la parte sportiva per fare una propaganda politica e per fare dei proseliti, per cui siamo spesso davanti a una tifoseria difficile da gestire proprio perché c'è un grande interesse politico e commerciale, quindi economico legato al fatto che una società che ha lo stadio pieno ha una quota di ripartizione maggiore, che fa più abbonati Sky a ripartizione maggiore e per cui la gente ha una propria tifoseria. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci prendiamo una pausa, poi vi ricordo quali sono i titoli principali e vi ricordo anche che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, e c'è anche il Twitter che è Roby_Giordano, Roby scritto con la Y.